Mi chiamo Valerio Nicolosi, sono un reporter e sono appena arrivato a Lesbo. Nei due voli che ho preso in precedenza, vi ho letto il primo capitolo di Il pianista di Yarmouk, un libro che mi piace molto, a cui tengo molto, è una storia veramente molto toccante. E io invece sono a Lesbos perché, proprio a proposito di Yarmouk, di Siria, di guerra, sto realizzando un documentario sulle frontiere d'Europa e in questo caso ovviamente sui profughi siriani. Già la scorsa settimana ero qui, poi mi sono spostato ad Evros e ora sono di nuovo qui. Sto cercando di raccontare quello che sta avvenendo lungo le frontiere d'Europa, non solo in questo punto, anche ovviamente nel Mediterraneo centrale e sulla rotta balcanica, però ecco, in questo momento in cui sto raccontando un nuovo esodo da parte di rifugiati siriani. Mi piaceva leggervi il primo capitolo di questo libro molto toccante, secondo me, in cui c'è una storia personale che ovviamente si incrocia con quella più generale, quella politica. Le immagini non raccontano mai l'inizio delle storie e su quello che viene dopo tacciono. Vale anche per la foto in cui sono seduto al pianoforte con una maglietta verde e canto in mezzo al mio quartiere ridotto in macerie. È uscita sui giornali di tutto il mondo e ancora oggi sento dire che è una delle foto simbolo della guerra in Siria, perché è più grande della guerra. Eppure, se ripenso al momento in cui sarà scattata la foto, l'immagine che vedo è un'altra. Sono tre uccellini, ma l'inizio non è nemmeno questo. Tutto cominciò all'alba. Come al solito ero andato a prendere l'acqua insieme ai due miei amici, Marwan e Raed, che significa uscire con il buio e spingere un carretto a tre ruote con sopra una cisterna da 1000 litri, fino alla fonte di approvvigionamento più vicina, una delle poche condutture che ancora funzionavano, riempirla e respingere il carretto verso casa, in un bagno di sudore. Abitavamo a Yarmouk, un quartiere di Damasco. L'esercito di Assad ci aveva tagliato fuori da tutto. Acqua, corrente elettrica, pane, riso. Erano già morte di fame più di 100 persone. Sistemata la cisterna, mi rimisi a dormire. Poco dopo, mio figlio Ahmad, che allora aveva quasi 2 anni, mi svegliò borbottandomi qualcosa nell'orecchio e poi, per gioco, mi infilò un ditino nell'occhio. Un malecane. Saltai in piedi. Il sonno ormai potevo dimenticarmelo. Anche il tè e il caffè non c'erano più da parecchio. Al mattino avevo preso l'abitudine di prepararmi una bevanda al gusto di cannella. Di cannella ce n'era in abbondanza, dopo che una banda armata aveva preso d'assalto un magazzino di spezie. Ma a cosa poteva servire la cannella se non avevamo neanche il pane? Ad ogni modo, la vendevano a un prezzo ridicolo. Non essendoci nemmeno lo zucchero, alcuni avevano iniziato ad usare come dolcificante la cera per depilarsi, bottino di un'altra banda armata. Caffè a base di cannella, zuccherato con cera depilatoria, tanto in basso eravamo caduti. Alcuni mesi prima, io e alcuni ragazzi del mio quartiere avevamo iniziato a cantare per strada. Caricavamo il mio pianoforte su un carretto, lo spingevamo fino alle macerie e cantavamo a squarciagola contro la fame. Su YouTube ottenevamo parecchie visualizzazioni, ma alla gente del nostro quartiere non interessava granché. Io di certo non me la prendevo, chi ha fame ha ben altre cose da cui preoccuparsi. Ad un certo punto, però, il coro si era sciolto. Alcuni dissero di non avere tempo, troppo presi per le spedizioni per prendere l'acqua e le file infinite per un paio di chili di riso da quelli dell'ONU. Altri insistevano per cercare uno sponsor. Io ero contrario, non volevo farmi strumentalizzare da nessuno. E così eravamo rimasti solo io e Marwan. Marwan, il mio vicino, l'amico con cui andavo a prendere l'acqua ogni mattina. Quel giorno, il giorno dei tre uccellini, avevamo appuntamento con un fotografo. Volevo cantare da solo davanti alle rovine. Non l'avevo mai fatto, ma era arrivato il momento. Volevo fare qualcosa, dovevo. Piccola parentesi, io e Marwan siamo amici, ma lui mi chiama prof. O meglio, se si tratta di andare a prendere l'acqua, sono Aekma. Ma se c'è di mezzo il piano, sono il prof. Gliel'ho detto 100.000 volte di smetterla perché mi fa strano. Lui mi risponde sempre: va bene, ho capito, Aekma. E 5 minuti dopo mi richiama di nuovo, prof. Tornando a quella mattina, andrei a svegliarlo. Marwan, dai, muoviti che abbiamo un appuntamento, gridai verso la sua finestra. Ehi, Marwan, allora? Insistetti. Scendi o no per aiutarmi a spingere il pianoforte? Di solito lui per me è sempre disponibile, a qualsiasi ora. Fu la prima volta che, per così dire, colsi un segno di malcontento. va bene, scendo, borbottò affacciandosi. Così andammo al negozio di musica, spingemmo fuori il carretto con sopra il pianoforte da 400 kg e ci incamminammo verso casa di Niraz, il fotografo. A Yarmouk lo conoscevano tutti, portava il pizzetto e occhiali con la montatura nichelata, i capelli lunghi legati in una treccia. Un artistoide con una falce e martello tatuata su un palmo. Le sue foto venivano pubblicate da grandi agenzie. Aveva fatto mostre perfino a Ramallah. Non c'erano campanello né citofono. Avevamo concordato un segno. Dovevo tirare un sasso contro la sua finestra. Un sassolino. I suoi vetri erano tra i pochi del quartiere ancora intatti. Forse era stata solo fortuna, ma Niraz ci era stato particolarmente attento. Appena iniziava a piovere bombe, spalancava le finestre per non farle esplodere. Lanciai il primo sassolino, piano piano. Un altro ancora, niente. Marwan iniziò a perdere la pazienza. Perché non si sveglia? Questo tuo amico, chi si crede? Un padre eterno? Altra parentesi, prima della rivoluzione Marwan era un bodybuilder. Ha i capelli rasati, corti, il viso tondo e spalle piuttosto larghe. All'improvviso afferrò un pezzo di cemento e lo scagliò contro la finestra di Niraz. Il vetro si ruppe, i pezzi caddero all'interno della stanza tintinnando. Pochi secondi dopo Niraz si affacciò imprecando. Ci fece una scenata colossale della serie «Maledetto Dio che vi ha messo al mondo, che sia maledetto, non abbiamo niente da mangiare, neanche un goccio da bere, e voi?» e via dicendo. Ci vuole un attimo per arrivare al profeta. Niraz scese di corsa per avventarsi su Marwan, che a sua volta si tirò su le maniche con aria bellicosa. Mi misi subito tra loro. «Callas, Callas, basta!» «La tua maledetta finestra te la ripago io», disse Marwan. «Ah sì? E con quali soldi?» sibilò Niraz di rimando. Alla fine, però, nonostante il pessimo umore, tornò dentro e prese le sue macchine fotografiche. Ci incamminammo. Il piano lo spingevamo io e Marwan. Cavolo, se era pesante. Di solito, su quelle strade scassate, lo spostavamo in 6 o 7. Mi sentii ancora più abbandonato. Niraz ci girava intorno e fotografava. Marwan sbuffava. «Se gentilmente potresti darci una mano», disse ad un certo punto. «Hai voglia a fotografare?» Ma Niraz non ci pensava nemmeno. La casa di Niraz era alla periferia di Yarmouk. Da lì al fronte erano pochi minuti. Imboccammo Palestine Street, un tempo piena di negozi, ora completamente deserta. Ad un certo punto Niraz si fermò e, gonfiando il petto, disse: «Qui, giriamo qui». Lì la distruzione era particolarmente evidente. Carcasse di cemento si innalzavano verso il cielo a mo' di enormi monumenti sepolcrali. L'interno delle case rovesciato verso l'esterno. Ovunque, dentro e fuori, antri pieni di tubi, cavi e persiane. Tra i detriti sparpagliati per strada crescevano erbacce. Lì la distruzione era particolarmente evidente. Carcasse di cemento si innalzavano verso il cielo a mo' di monumenti. L'interno delle case rovesciate verso l'esterno. Ovunque, dentro e fuori, antri pieni di tubi, cavi e persiane. Tra i detriti sparpagliati per strada crescevano erbacce. Presi posto al piano e riflettei su che cosa cantare. Negli ultimi mesi avevo scritto decine di canzoni, musica che mi era sgorgata da dentro. Mi tornò in mente una poesia che un uomo mi aveva dato qualche giorno prima. L'uomo si chiamava Ziad al-Karraf. E un tempo era stato il venditore di miele nel nostro quartiere. Un uomo benestante, istruito. Io non lo conoscevo bene, ma possedeva un titolo di dottore. Il miele lo vendeva per passione. Faceva escursioni in montagna dagli apicoltori o in paesi lontani, per esempio nello Yemen, solo per provare varietà particolari, prima della guerra, ovvio. Di recente era venuto da me e mi aveva dato un foglietto. Aveva un aspetto terribile. Impotente, disorientato, le palpebre semichiuse, gli occhi stanchi e vuoti. E io, idiota, avevo letto e fatto il saputello dicendo: «È scritto benissimo, ma dubito che si possa cantare. Forse posso recitarlo come poesia, ma l'accompagnamento col pianoforte, cantare non credo». Faceva così. Ho dimenticato le parole da cui solevo formare canzoni. Ho dimenticato la mia voce e la mia immagine, il mio posto. Ho dimenticato le mie fatiche del cammino verso il cielo, verso l'uomo, verso la gloria di un tempo. Palestinesi, palestinesi. E qui il tempo è fermo, davanti a una pagnotta di pane, davanti a uno scatolone di aiuti umanitari. Oh Palestina, mia gloria, Palestina, mia madre. Ti prego, Ahmah, provaci, aveva insistito Ziad con un filo di voce. e per mia moglie, e mi aveva raccontato la storia. La moglie, in stato interessante avanzato, aveva ricevuto un permesso per andare a partorire a Damasco. Arrivata al checkpoint, i soldati non l'avevano lasciata passare. Il nome sul documento era sbagliato. Tutti gli altri dati erano corretti, ma due lettere del nome erano state invertite. I soldati non avevano voluto sentire ragioni. La donna aveva aspettato per ore e ore che qualcuno correggesse e lasciasse passare. In piedi, seduta e camminando, ad un certo punto era crollata. In avanti, sulla pancia. Era morta durante il tragitto per l'ospedale. Il bambino era sopravvissuto. Nessuno, però, sapeva se sarebbe stato in salute. Ziad l'aveva amata più di ogni altra cosa. Non era stato un matrimonio combinato. L'aveva sposata per amore. Sua moglie era stata anche la sua migliore amica. Avevano già tre figli. Quello era il primo maschio. Davanti a occhi infinitamente stanchi, io alla fine avevo balbettato: mi dispiace, per favore dimentica quello che ho detto, va bene, metterò parole in musica, farò una canzone per tua moglie. La stessa sera mi ero seduto al piano, avevo pensato ad una melodia. Mentre Niraz ancora montava i suoi strumenti, all'improvviso arrivò una signora con un vassoio. Il fatto che qualcuno spuntasse in quel posto sconsolato con un pianoforte, ci spiegò, l'aveva esaltata, al punto da tirare fuori i suoi ultimi chicchi di caffè. Li aveva tenuti da parte per un'occasione speciale. E l'occasione speciale era arrivata. Il suo ultimo caffè voleva berlo mentre mi ascoltava suonare. «Quello che fate è importantissimo», disse versandone una tazza. Sorrisi riconoscente e mi goldetti il gusto amaro. Proprio in quel momento sentì un cinguettio. Tre uccelli appollaiati sulla ringhiera di un balcone, al primo piano, dritto davanti a me. Un piccolo miracolo. Una granata, infatti, ogni sparo, per prima cosa fa sparire gli uccelli. E i pochi che perdendosi tornavano a Yarmouk venivano subito abbattuti, a causa degli stomaci vuoti. Appena iniziai a suonare, gli uccellini ricominciarono a cantare. Il cinguettio che non ascoltavo da tanto tempo, il profumo di caffè di cui sentivo la mancanza da mesi, la rabbia per gli stomaci vuoti, il mio occhio che ancora lacrimava per la ditata di mio figlio. Tutto questo si mischiò con il sapore di cannella che avevo nella pancia, la stanchezza delle sfacchinate per l'acqua e lo sguardo vuoto di Ziad al-Karraf. Chiusi gli occhi e attaccai. Ho dimenticato il mio nome, le lettere e il senso. Ho dimenticato le parole da cui solevo formare canzoni. Appoggiai la schiena alla sedia e cantai. Non ne potevo più, mi faceva schifo tutto. Ero pieno di ansie e preoccupazioni. La storia di Ziad, i bambini denutriti, la scomparsa di mio fratello. Il pianoforte scordato, le mie mani rovinate. Cosa ci facevo lì da solo in mezzo alle rovine? Dove erano finiti gli altri? Perché mi avevano piantato? La signora scoppiò a piangere. Le parole di Ziad fecero rimbombare lo smarrimento di tutti. La signora, i tre uccellini, Niraz, Marwan, io. Il mio canto fu il grido di una persona che stava precipitando in un baratro. Le melodie del suo viaggio verso l'inferno. Niraz deve aver scattato la foto in questo momento. Oggi, in Germania, a volte la gente mi chiede: di che colore era la tua tenda? Lì, al campo profughi palestinese. Santo cielo! E chi ha detto che abitava in una tenda? Aveva un appartamento di proprietà, grande e bello. Il nostro negozio di musica andava a gonfie vele, fino a quando non è arrivata la guerra, che ha distrutto ogni cosa. Una granata mi ha tranciato i tendini di due dita. Una ragazzina è stata uccisa a due passi dal mio pianoforte. L'ISIS ha bruciato il mio piano. Mi hanno sbattuto in cella. Sono riuscito a fuggire. Quando scappi dalla fame e dalle bombe, abbandoni il tuo mondo e ti trasformi in uno di quei loschi figuri che hanno sempre vissuto nella miseria e adesso arrivano in Europa per prendere parte alla grande ricchezza. Così la vedono quelli che non capiscono chi siamo e da dove veniamo. Chi ha paura di noi? La mia storia, però, è diversa. Cercherò di raccontarmela contro i falsi miti, contro le semplificazioni, contro le immagini ingannevoli, nonostante il loro barlume di verità.